Da quanto tempo sei qui in questo centro? Ho perso qualche mese ogni tanto per motivi di malattia o di cura, ma comunque fammi pensare, dal novembre del 1996. Ah, è il 21° anno. Tanto. Posso dire tra alti e bassi, comunque in linea di massima, di essermi sempre trovato bene, ormai mi sento. È troppo di parte integrante del centro, comunque. O potrei anche definire il pezzo d'antiquariato del centro perché sono il più vecchio di servizio del centro tra gli utenti. Comunque, finché mi tengono ci rimango volentieri. Parallelamente ho anche un lavoro, faccio il bidello più di buono con un te a tempo part-time e combaciano le due cose, qualche ora qui nel pomeriggio, qualche ora al mattino più di buono presso la scuola media. Come vivi la tua quotidianità? E la quotidianità, qua, in mancanza di buona struttura, non è sempre semplice. Non è che batte la testa contro i muri o che faccio lo struzzo in tirare la testa contro, sotto la sabbia. Infatti anche i miei genitori dicevano che non mi sono mai rannicchiato in casa. Anzi, così. Ti trovi qualche volta in difficoltà? Succede, succede.